Economia in Europa. In collaborazione con Euronet. Riflettori puntati sulla crisi greca e sull'attesa dell'accordo fra i partiti in merito alle riforme richieste dall'Europa e alle misure di austerità richieste dalla Troica, Unione Europea, BCE e Fondo Monetario Internazionale, le prospettive sul futuro dell'Eurozona nel caso dell'uscita di Atene dalla moneta unica, ma anche le preoccupazioni per gli altri paesi periferici come il Portogallo. Sono questi i principali argomenti al centro della cronaca economico-finanziaria europea di questa puntata di Economia in Europa. La settimana è trascorsa nel segno dell'attesa e con tutti gli sguardi rivolti verso la Grecia in attesa dell'accordo sulle riforme richieste dall'Europa. La Troica, Unione Europea, BCE e Fondo Monetario, ha chiesto ad Atene nuovo rigore in cambio di una nuova tranche di aiuti da 130 miliardi di euro. Il termine tecnico per scongiurare il default è fissato al 13 febbraio. Se entro tale data non si sbloccherà la nuova tranche di aiuti, non ci saranno più tempi necessari per scongiurare il mancato rimborso dei 14,5 miliardi di titoli greci in scadenza il 20 marzo prossimo. Il premier Papademos è quindi rimasto stretto negli ultimi giorni fra i partiti politici, i creditori privati e appunto le richieste della Troica. Una trattativa complessa perché sono tante le parti in gioco. Secondo Alessandro Capuano, managing director di IG Markets Italia, una soluzione si troverà. Sentiamolo ai nostri microfoni martedì 7 febbraio. La cosa che va considerata è che la trattativa non è delle più semplici, perché ci sono tre parti contrapposte. Da un lato hai l'Europa che vorrebbe mettere mano al portafoglio per l'ultima volta e quindi richiedere il più possibile misure di austerità. Dall'altro abbiamo il governo greco che deve tenere sotto controllo l'opinione pubblica e cercare di cambiare il meno possibile. Da un altro ci sono gli investitori istituzionali che hanno dovuto partecipare, diciamo, forzosamente a questa trattativa, che cercano di spuntare il più possibile. La sensazione che abbiamo noi sul mercato, anche guardando l'asta di oggi sui bond greci, è che comunque una soluzione inevitabilmente si troverà, perché, diciamo, non conviene a nessuno che non si trovi la soluzione. E man mano che si andrà più verso il 13 e i tempi saranno stretti, probabilmente le richieste dovranno convergere verso una soluzione comune. Quindi la borsa è vero che è ferma, i volumi sono bassi, però negli ultimi giorni abbiamo visto proprio il mercato che, dopo uno sprint che aveva avuto post fiscal compact, in realtà si è fermato e attende quello che succederà in Grecia. E siamo proprio alla giornata di martedì 7. Sulle decisioni greche c'è una pressione sempre maggiore, a cui hanno contribuito lunedì alcune dichiarazioni di Angela Merkel e Nicolas Sarkozy, che hanno di nuovo sottolineato, dopo un incontro bilaterale senza mezzi termini, che il tempo stringe. Si è unito al coro anche il portavoce del commissario europeo agli affari economici e monetari Olli Rehn. Tutte le parti sono pronte a fare il massimo, ma c'è un ritardo che non si può ignorare. E ora speriamo solo di poter vedere gli impegni necessari per far avanzare la situazione, ha detto il portavoce, spiegando che l'Eurogruppo è pronta a riunirsi non appena l'intesa sarà sul tavolo. Intanto i due maggiori sindacati greci dei settori pubblico e privato hanno organizzato, sempre per martedì 7 febbraio, uno sciopero generale di 24 ore per protestare contro il nuovo piano di austerità che ha paralizzato il paese e creato alcuni momenti di scontro fra manifestanti e polizia. Nella stessa giornata, peraltro, la Grecia collocava sul mercato titoli per 812 milioni di euro a 182 giorni, con rendimenti in leggero calo rispetto all'analoga asta precedente. I tassi infatti sono risultati in discesa al 4,86% dal 4,90% pagato in precedenza, mentre la domanda è stata pari a 2,72 volte l'importo offerto. E mentre la cancelliera tedesca Angela Merkel si mostrava possibilista su una chiusura delle trattative entro giovedì 9 febbraio, giornata peraltro durante la quale il governo greco e i partiti politici lo hanno raggiunto questo accordo sulle misure di austerità, hanno fatto discutere, sempre nella giornata di martedì, le parole di Nelly Kroes, ex commissaria alla concorrenza europea e ora commissaria all'agenda digitale. La Unione Europea si prepara al default della Grecia, ha detto la Kroes, e ha continuato: non muore nessuno se un paese esce dalla zona euro. In un'intervista ad un quotidiano fiammingo, la Cresa ha detto che continuiamo a ripetere sempre che se lasciamo uscire un paese dall'euro, tutta la struttura dell'eurozona affonda, ma non è vero. Al dibattito seguito a queste parole di Nelly Kroes sono seguite le dichiarazioni di Barroso, presidente della Commissione europea. I costi di un'uscita della Grecia dall'euro sarebbero più alti dei costi per continuare a sostenere Atene, ha detto. E così si è espresso in merito anche Olivier Bailly, portavoce della Commissione europea. Gli scenari di un default della Grecia al momento esistono, ha detto, ma nessuno ha intenzione di alimentarli. Sentiamolo. The Commission line is very clear on this file. We want Greece to remain a member of the euro area. La linea della Commissione è molto chiara su questo argomento. Vogliamo che la Grecia resti un membro dell'area euro. Questa è anche la posizione dell'Eurogruppo. La vicepresidente Kroes non ha chiesto che la Grecia lasci l'area euro e nemmeno ha detto che è uno scenario probabile. Ha solo affermato che l'euro è una moneta forte e che la Grecia deve affrontare le proprie responsabilità. Per il resto la Troica, ossia BCE, Fondo Monetario e Commissione, continuano a negoziare con le autorità greche un secondo programma di aiuti, con lo scopo di salvaguardare la stabilità finanziaria in Europa. Noi facciamo il massimo per sostenere lo sforzo della Grecia verso la stabilità. Siamo assolutamente fiduciosi che l'euro sopravviverà alla tempesta e uscirà da questa crisi ancor più forte. Siamo consapevoli che si sta discutendo di scenari rischiosi, proprio in un momento in cui si tengono incontri delicati ad Atene. Il compito della Commissione non è gettare benzina sul fuoco delle speculazioni. La Commissione non ha cambiato posizione ed è molto chiara. Vogliamo che la Grecia rimanga nell'area euro. We want Greece to remain in the euro area. La preoccupazione per la crisi greca ne porta con sé anche molte altre. Se la crisi non dovesse risolversi, Atene potrebbe iniziare a contagiare gli altri paesi periferici a rischio default, a partire dal Portogallo. Ma ci sono molte differenze fra le vicende di Atene e quelle di Lisbona. Torniamo a sentire su questo Alessandro Capuano, Managing Director di IG Markets Italia. Innanzitutto la deriva del Portogallo, ahimè, è già aperta. Se guardiamo i prezzi dei credit default swap e dei rendimenti dei titoli portoghesi, il mercato annusa già che ci sarà bisogno di un intervento del Fondo Monetario Internazionale. Però non confondiamo le cose. La Grecia è un problema che è nato 2 anni fa con una vera e propria falsificazione dei bilanci. La Grecia ha un problema di sostenibilità del proprio debito nel lungo periodo, quindi è proprio un problema di insolvenza, mentre il Portogallo ha un problema di liquidità, che era un po' quello che si era verificato sui bond italiani negli ultimi mesi. In tutto l'autunno. Esatto, diciamo. Esatto. Quindi sono due storie separate. Ci spiega esattamente che cosa vuol dire quando si manifesta un problema di liquidità? Lo traduciamo ai nostri ascoltatori. Ma un problema di liquidità, sì, che io ho tante case, ma le banche non mi, quindi ho un bel patrimonio, ma le banche non, gli investitori non mi prestano i soldi perché non hanno fiducia sulla mia capacità di far fruttare quel patrimonio e quindi restituire il debito. Oppure me li prestano ma chiedono dei rendimenti altissimi. Oppure me li prestano, chiedono dei rendimenti altissimi perché hanno paura dei tassi di interesse altissimi. Esatto, perché hanno paura che non rimborsano. In Grecia invece il discorso era le case proprio erano finte, non c'erano, per metterla in termini semplici, quindi e hanno falsificato i bilanci. Ahimè, il problema è che è vero, la Grecia era è uno stock di debito relativamente piccolo per l'Europa, però attenzione, numero uno, le banche più esposte ai bond greci paradossalmente sono proprio quelle tedesche e quelle francesi. Altra cosa che va analizzato è che appunto sì, il debito greco è vero che è piccolo, però si sarebbe potuto risolvere prendendo delle decisioni sicuramente impopolari, sicuramente mettere la mano al portafoglio dei tedeschi e dei francesi non era una cosa da fare 2 anni fa da un punto di vista di ragionamento politico, ma si sarebbe potuto risolvere il problema spendendo molti meno soldi per la comunità se si interveniva in maniera decisa 2 anni fa. Tra gli indizi di quello che per molti è il default annunciato del Portogallo c'è il livello dei tassi di rendimento dei titoli di Stato giudicato ben oltre la soglia di un non ritorno. Ma cosa significa esattamente questa espressione? Quali sono le conseguenze del superamento di questa soglia? Sentiamo la spiegazione di Felice La Fortezza, responsabile del settore obbligazionari di Banca Intermobiliare, ai nostri microfoni martedì 7 febbraio. Diciamo che il punto di non ritorno è inteso come rendimento a cui uno Stato ha convenienza a finanziarsi sul mercato. Sicuramente per il Portogallo questo livello è già stato superato, nel senso che i rendimenti espressi dal mercato sono ampiamente sopra il 10% e quindi sono livelli, diciamo, di interesse insostenibili, diciamo, per le finanze pubbliche. Non a caso il Portogallo ormai non va più sul mercato, cioè va sul mercato ma sostanzialmente mettendo dei titoli a breve termine, come ha fatto questa mattina oggi la Grecia, ma che vengono poi sottoscritti semplicemente dagli investitori locali, quindi sostanzialmente le banche del paese. Invece l'accesso, diciamo, ai mercati internazionali è sostanzialmente bloccato sia per la Grecia sia per il Portogallo, che sostanzialmente sta finanziando il proprio debito attraverso, diciamo, un piano di assistenza finanziaria coordinato dal Fondo Monetario e dall'Unione Europea. No, questo tanto per dire anche con gli ascoltatori, perché qua poi le tentazioni chiaramente cominciano a volare, che se si volesse approfittare di questa situazione e speculare un po' su questi titoli, in realtà per il piccolo risparmiatore il mercato è quindi teoricamente precluso o praticamente... No, in realtà il mercato del primario, cioè nuove emissioni sul mercato in questo momento non vengono effettuate. Però sul secondario potrebbero... Però diciamo ci sono dei titoli già emessi che esprimono questi rendimenti e che quindi hanno prezzi di acquisto che sono... molto sotto la parità, prezzi anche nell'ordine del 50-60%, quindi, diciamo, la speculazione teoricamente è possibile. In questo momento, diciamo, il paese che non riesce ad accedere a ottenere nuovi finanziamenti sul mercato perché i tassi di interesse che dovrebbe pagare sarebbero troppo alti, cosa che per l'Italia non è mai avvenuta. Anche nel momento di massima crisi, quando siamo arrivati con rendimenti vicino all'8%, lo Stato ha collocato i propri titoli sul mercato e quindi non siamo mai entrati, diciamo, in questa fase di... E concludiamo ricordando ancora che il governo greco e i partiti politici hanno raggiunto un accordo sulle misure di austerità, il mercato è più sereno e con questa notizia anche per questa settimana con Economia in Europa è tutto. Economia in Europa, in collaborazione con Euronet.